quando nel sentiero abbandonato ti parlavo del mio amor. Con un dolce bacio appassionato mi stringevi al cuore. Ti chiamavo Sante, questo nome mi faceva sospirare, ma in un triste giorno non t'ho vista ritornar. Piccola santa tu, piccola santa, che mi giuravi amor lungo il torrente. C'è una chiesetta ancora sopra quel monte, dove pregavi tu, piccola santa. Piccola santa, piccola santa tu, piccola santa, che mi giuravi amor lungo il torrente. C'è una chiesetta ancora sopra quel monte, dove pregavi tu, piccola santa.